Ehi, buongiorno. Si sta belli caldi lì, eh? Adesso ci penso io a svegliarvi. Sveglia! Benvenuti all'Early Bird Special. Aloha passerottine e passerottine care, benvenuti e ben ritrovati all'Early Bird Special. Tutti i giorni dalle 6 alle 7 questa è la prima colazione che serviamo dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, quello della grande musica, quello delle chiacchiere, quello della tazza di caffè nero bollente, praticamente incollata qui davanti a me nella scrivania dello studio di Rock FM. Prime ore dell'alba, ragazzi, eppure qui si rocca e si rolla di brutto. David Lee Roth, quel filone, Just a Gigolo, Ain't Got Nobody. Sad and lonely, want some sweet mama. Vedo lì danzare per le strade quasi deserte delle vostre città con questo smoking, con il cappello a tuba, il papillon, a cantare Ain't Got Nobody and Just a Gigolo insieme a David Lee Roth. Questa è la magia di Rock FM, questo è l'Early Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7 con Chuck Bird, che in questo momento vi fa salire su un Greyhound e vi porta nel cuore del Texas. ZZ Top. Dash. I've been good. Le barbe più lunghe del Texas, ZZ Top. Ma non sarà il Texas, né tantomeno delle barbe dei texani, il soggetto del mio primo racconto della giornata, ma le avventure di Iggy Pop e David Bowie a Berlino. Se siete curiosi, vi invito a rimanere all'Early Bird Special, che vede in questo momento come protagonisti i Deep Purple. I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Deep Purple, Soldier of Fortune. Ma non è di loro che vi voglio parlare, ma di una strana coppia di artisti che a metà degli anni 70 decise di fuggire dalla pericolosa Los Angeles alla volta di Berlino, nel cuore dell'Europa. O chi conosce la storia dell'iguana e del Duca Bianco sa che ad un certo punto i due scapparono dalla California per sfuggire alla morsa dalla dipendenza dalla cocaina. Beh, pare che di recente lo stesso Iggy Pop ha dato una versione un po' differente della cosa. Ecco come descrive la tipica settimana berlinese. Normalmente David Bowie e Iggy Pop si facevano di ogni possibile veleno per un paio di giorni. Poi passavano una coppia di giorni a farsi passare la sbronza e fine tre giorni dove cercavano di fare i bravi. E questo per interi mesi. Iggy racconta che viveva in una casa grande ma senza acqua calda corrente. Si alzava e si lavava con una spugna, poi faceva colazione con pane nero e formaggio. Una volta mangiato, camminava per le vie della città, che non era cambiata dal 1910 più o meno. C'erano negli angoli suonatori di organetto con la scimmia che ballava e nei locali degli ottimi spettacoli di travestiti. Birbantello! Il programma serale comprendeva la cena con David Bowie, poi un salto al cinema. si rimaneva a casa a guardare una puntata di Stasky e Hutch. Iggy racconta che naturalmente conosceva un sacco di gente cattiva con cui uscire e fare cose cattive. Spesso però faceva con loro anche delle cose buone, e le cose cattive le faceva con David Bowie. Grande periodo quello berlinese per i due. Iggy se ne uscì con The Idiot e Last for Life, David Bowie con l'immortale Heroes. She hasn't got time to make you a wife. L'ottimista dice: ehi, finalmente martedì! Il pessimista: accidenti, è solo martedì. Ma se siete qui con me, avete affrontato la giornata nella maniera migliore. Perché questa è la colazione rock che ti viene servita da Rock FM. L'Early Bird Special con Chuck Bird e la dolce Cherie a sciabattare qui dagli studi di Rock FM. In questo momento lei mi sta servendo la mia classicissima tazza di caffè nero bollente. Thank you, Cherie.